multimediale, no? Sentiamo, comunicazione multimediale come capanno, come genere. Classificazione di Linneo, sapete come si classifica le specie di animali? Sì. Genere, specie, poi varietà, eventualmente razza. Allora, genere, comunicazione multimediale, che non vuol dire niente. Specie, progettazione della comunicazione sociale. Tutti e due questi titoli sono illusori. Il titolo del corso specifico di quest'anno è Divenire Media. Divenire Media. Questo è il concetto del corso. È la prima volta che faccio un corso, che faccio una roba di questo tipo in questo corso qua. Ma vediamo come va. Divenire Media. E ho spiegato il significato di divenire media nella versione scorsa. Oggi faccio addirittura un passo indietro e definirò, proverò a definire la comunicazione. Che cos'è la comunicazione? Poi faccio un breve riassunto dell'anno scorso, sperando, no, un riassunto molto tendenzioso dell'anno scorso, in cui quelli che hanno fatto il corso l'anno scorso non si conosceranno, a ulteriore dimostrazione del fatto che è impossibile insegnare a alcunché, se uno degli interlocutori capisce altre cose da quelle che intende dire o comunica, che è una fortuna, perché altrimenti sarebbe una noia mortale la vita, se tutti capissero davvero quello che l'altro vuole dire, tanto non ci sarebbe più l'ermeneutica, se uno dice meglio, no? A parte che il povero professor Ferraris e un sacco di altre gente in Italia sarebbero morti di fame perché non avrebbero lavoro, ma a parte questo, no, comunque dai, la vita con l'ermeneutica è un po' più divertente che non c'entra, magari non la chiamiamo ermeneutica. Quindi questo è il corso. Allora, rimane più o meno l'impianto storico, però quest'anno farò una sperimentazione, quindi tenendo conto, come vi ho detto, di alcune critiche fatte da alcuni di voi, non di voi, di quelli dell'anno scorso, al fatto che davo troppa importanza alla dimensione storica, gliela darò sempre, ma in un modo diverso da come ho fatto l'anno scorso, quindi non vi farò una vera e propria storia dei media audiovisivi. Allora, lo scorso anno ho fatto, il programma dell'anno scorso era il passaggio dalla oralità alla scrittura, il ruolo dell'alfabeto tra i sistemi di scrittura mondiali e l'invenzione della stampa come coronamento e perfezionamento della mentalità alfabetica. L'orizzonte di quest'anno invece comprende i media audiovisivi, quindi comprende dal punto di vista storico gli ultimi due secoli prima del nostro, cioè il XIX e il XX, che sono i secoli in cui nascono questi media con. Però per chi vuole approfondire la storia di questi media si va a prendere un libro qualunque di storia dei media, è pieno, ce n'è nella bibliografia che sta, quando sarà accessibile, sì, spero sia accessibile, c'è qui un programma scritto amorevolmente da me con tutta una bella bibliografia, con tanti bei libretti di storia dei media, comunque vi dico, più importanti sono quelli di Ottoleva, che è un amico mio, anche se intanto ci spaziamo un po', ma insomma, ha detto che ha fatto una bella storia dei media, poi c'è il libro di che è tradotto malissimo, ma ci possiamo fare dal francese, e edito da Cristian Marinotti. Poi cosa c'è ancora? Ah, il libro di Matelard, molto, molto buono, o l'invenzione della comunicazione o la comunicazione del mondo, sembra sono entrambi dei saggiatori, sempre francesi, Armand Matelard, mi sembra che il primo è scritto in collaborazione col figlio, si sta trovando. Allora, o Matelard, o l'Altoleva, o Bertrand Lavenier, vabbè, insomma, lì vi fate una qualunque enciclopedietta, insomma, vi fate un po' di storia dei media, io farò riferimento, ma non parlerò specificamente delle tappe, quindi do per scontato che queste cose più o meno, se non le sapete adesso, le sappiate nel corso del corso. Im Lauf der Kurs. Due parole diverse per il corso normale, Lauf der Zeit, nel corso del tempo. Allora, comunicazione, cosa vuol dire comunicazione? Da cosa deriva la parola comunicazione? Da quale lingua deriva? Dal latino. Da quale parola latina? Communio, communis. L'etimo di communio è piuttosto militaresco, perché deriva dalla stessa radice di munire. Ora, noi nell'italiano il verbo munire è diventato piuttosto, diciamo, pacifico, tranne che in una parola derivata da munire, che è munizione. Per i latini invece munire deriva da menia, menium, che non c'è al singolare, plurale, menia, scritto con la oema, poi c'è un cambio vocale con u. Quindi munire vuol dire fortificare per i latini, cioè costruire un muro intorno a qualcosa. Communio vuol dire costruire un muro intorno a qualcosa che racchiuda qualche cosa per un certo numero di persone. E quindi vuol dire, noi lo traduciamo con mettere in comune. Quindi la comunicazione è sempre mettere in comune qualcosa. Comunicare vuol dire mettere in comune qualcosa. Quindi non, attenzione, dopo l'avvento nel Novecento di un paradigma culturale come quello dell'informazione, noi spesso scambiamo la comunicazione per un trasferimento di informazioni. Per esempio, voi potete facilmente, prendete a scambiare anche questo corso per un trasferimento di informazioni. No? A parte che forse non sarà così, perché l'informazione dovrebbe a priori ridurre l'entropia del mondo, mentre probabilmente i miei corsi crescono, l'entropia invece di ridurre, potrebbe essere questa, non so. Ma la cosa importante è che solo marginalmente io vi trasferisco delle informazioni, delle informazioni si pone, si spera, nuove, cioè inedite per voi, cioè contenuti, cose che prima non conoscevate e che da quel punto in poi conoscete. Più realisticamente sto cercando di mettere in comune con voi delle ricerche, e questo spiega perché questo corso aumenterà l'entropia del vostro cervello invece di ridurla, perché siccome non ho ancora finito neanche io queste ricerche qua e ho confusione anche io in testa, non posso che trasferirla in parte anche a voi. Però insomma, siccome io ritengo che da un certo punto di vista certi stati di cose, certe condizioni, da un certo punto di vista la confusione sia preferibile alla chiarezza, o meglio che la chiarezza possa essere raggiunta soltanto a partire da uno stato di confusione e di opportuno sgrossamento di questa confusione, continuerò a farlo. Anche se poi il professore con me. Allora, mettere in comune. Comunicazione vuol dire mettere in comune. Allora, come voi dite, va bene, ma allora c'è una comunicazione, in tutti gli esseri viventi comunicano, da un certo punto di vista sì, tutti gli esseri viventi si basano su processi che potremmo generalissimamente definire di scambio dell'interno con l'esterno. Tutto. Un organismo è qualche cosa, ha anche una ameba, una cellulina, ha una membranina intorno che racchiude ciò che sta dentro la membranina e l'interno della cellula, ciò che sta fuori dalla membranina e l'esterno, c'è uno scambio di qualche tipo fra l'interno e l'esterno, quindi questo è banale. Anche qualunque essere vivente fa della comunicazione nel senso che diciamo noi, cioè mette in comune qualche cosa, sì e no. Probabilmente è difficile definire gli scambi tra interno ed esterno di carattere puramente biochimico che fanno tutte le forme di vita, comprese quelle inferiori, come un processo di comunicazione. È difficile perché non sappiamo bene cosa vuol dire, come si possa definire un concetto di comune o di comunità o di comunione, per esempio, per una colonia di amebe. Sicuramente anche loro avranno qualcosa in comune, ma insomma, non pensate a voi che guardate dal di fuori le amebe e dite, ah, queste hanno in comune il fatto di essere tutte amebe. E grazie al cazzo, ma siete voi, cioè è il nostro cervello che dice che queste hanno in comune la caratteristica di ameba. L'ameba in quanto tale non lo sa. Non lo sa, forma di vita che non ha coscienza di essere, neanche le piante hanno una coscienza, anche Tolkien pensava diversamente, e come tutti sapete nel Signore degli Anelli si immaginò che gli alberi fossero delle entità coscienti che avevano sicuramente dei tempi molto più lunghi dei nostri, ma insomma quelle sono le piante fantastiche di Tolkien, niente a che vedere né con la scienza né con uno studio della società minimamente decente, quindi diciamo la comunione, la messa in comune di qualcosa si può avere soltanto quando le forme di vita sono un po' più complesse di un'ameba. Diciamo che tra i vertebrati, in particolare tra i mammiferi, si può parlare di comunicazione, senso di mettere in comune qualcosa. Quello sì. Però che cosa mettono in comune? Che cosa mette in comune un gruppo di lupi, un branco di lupi o un per esempio il paguro Bernardo d'Eremita mette in comune poco. Sapete chi è Bernardo d'Eremita? Il paguro è un molluschetto del calcio piccolino che è noto, in realtà tanto si chiama Bernardo d'Eremita, che è noto per non avere guscio lui, cioè lui è totalmente nudo, come una lumaca senza guscio, che ogni tanto se ne vedono, però come lo fa, si procura il guscio, va a vivere un parassita in senso un po' vale, un po' generico, si infila nei gusci vuoti, nelle conchiglie vuote di altre specie, di altri esseri viventi, quindi fa. Allora, scava Bernardo l'Eremita perché vive da solo, per i fatti suoi, quindi ovviamente lui ha poca comunicazione, non mette in comune niente, perché però sono forme di vita fatte così. Ma ci sono forme di vita anche a livello, in genere nei molluschi c'è poca comunicazione, fra gli insetti invece sì, ci sono delle categorie di insetti che si chiamano insetti sociali, come voi sapete, sono in genere gli imenosteri, formiche, api, vespe, eccetera, le quali hanno un tipo di organizzazione sociale molto sviluppata, che mettono in comune un sacco di cose. Poi andiamo su fino ai mammiferi, eccetera. Ora, con tutta la diversità, in un formicaio come in un branco di gorilla, diciamo che sono molto, molto vicini, molto simili a noi, che cosa si mette in comune? Si mettono in comune dei segnali, dei comportamenti, quindi c'è una comunicazione lì anche nel senso che diciamo noi, no? Si mettono in comunicazione dei comportamenti o dei segnali, quindi qualcosa che allude a qualcosa che non c'è in quel momento, per esempio se si avvicina un altro essere vivente potenzialmente ostile, il gorilla che lo avvista farà un certo grido, emetterà un certo suono che gli altri gorilla del suo branco interpretano correttamente come attenzione, c'è uno scassacacce che ci viene a trovare o cose del genere. Quindi vengono messi in comune o dei comportamenti, cioè esplicitamente, direttamente dei comportamenti, dei modi di muovere, eccetera, o dei segnali, quindi dei segni, qualche cosa che sta per qualcos'altro, ma di immediata comprensione da parte degli altri membri del gruppo. La comunicazione umana invece ha una caratteristica diversa, la comunicazione umana è una comunicazione simbolica, nel senso simbolico, adesso col termine simbolico io cerco di usare il termine simbolo il meno possibile, uno dei testi che leggerò oggi c'è la parola simbolo, ma vorrei che la traducessimo con segno, perché simbolo per noi è carico di un sacco di cose, perché non voglio trovarmi nessuno che mi parli di archetipi, di cose del genere, perché no. Cioè il simbolo, diciamo un segno, è un termine più neutro, segno, no? Il qualcosa segno che sta per qualcos'altro. Qualcosa che sta per qualcos'altro. Aliquid pro aliquo. È meno impegnativo, cioè simbolo uno, una accezione del termine simbolo è la stessa di segno, perché poi simbolo implica anche altre cose, implica il riferimento a perfettazioni della mente umana, a volte anche un po' eccessive, direi di eliminarlo, quindi quando a volte diciamo comunicazione simbolica e possiamo dire così, lo intenderemo come sinonimo per me di comunicazione segnica, la comunicazione fatta a segni. Che caratteristica hanno i segni che utilizza l'uomo? E i segni che utilizza l'uomo non sono di immediata, i segni elementari non sono di immediata interpretazione, di immediata decodifica, anzi non significano un bel accidente, i segni elementari che utilizza l'uomo, i 25, 24, 26, 28, 30, 31, 32 diversi suoni che l'apparato fonatorio umano può significano nulla e spesso non significano nulla neanche le loro più immediate, i loro più immediati accorpamenti, le loro più immediate congiunzioni. Per esempio un suono vocalico, un suono consonantico e uno o più suoni vocalici, o un suono vocalico e uno o più suoni consonantici, diciamo quella che si chiama sillaba, di per sé in genere non ha significato. Il significato, cioè il rapporto con quello che vuol dire, si ottiene a partire da una combinazione più complicata e più stratificata di suoni ripetitivi. Questo fenomeno è detto della doppia articolazione. Il linguaggio umano è un sistema, l'unico sistema comunicativo che noi conosciamo tra gli esseri viventi su questo pianeta. Può darsi che tu veda quattro, come siamo altri, ma non sono mai andati, non sappiamo come stanno le cose, ma sul pianeta Terra non conosciamo nessun altro sistema comunicativo di esseri viventi basato su un principio come questo, della doppia articolazione. Questo è ciò che fa il linguaggio umano, con tutte le sue somiglianze con altri, somiglianze o forse comunanze di origini con altri sistemi di comunicazione, anche di primati superiori, anche quindi di esseri molto simili a noi, cioè simili a noi per la grandissima parte del DNA. Voi sapete che noi condividiamo con lo scimpanzé, per esempio, quasi il 98% del nostro DNA è uguale a quello di uno scimpanzé, quindi non è che... Però questo 2%, noi abbiamo questo sistema che non ha nessun altro, che è quello della doppia articolazione. Allora, torniamo a noi. Mettere in comune. Questo vale sia per noi che per gli altri esseri viventi, ma quando pensiamo a noi dobbiamo pensare a questa specificità della comunicazione linguistica. Mettere in comune qualcosa significa prendere qualcosa, prelevare qualcosa di materiale o di immateriale o di potenziale che sta all'interno del nostro corpo e portarlo fuori dal nostro corpo. Il linguaggio è esattamente questa cosa. Ogni sistema di comunicazione fra esseri viventi è fatto di questa cosa. Quando la formichina alacre e operosa e schiavizzata dal suo sistema, c'è anche un cavolo, c'è anche un Berlusconi con cui prende questa cosa, la formichina. Quando la formichina va in giro e trova il cibo e dice, ah, dice, qui c'è del cibo, cosa fa? Alza la gambetta come il cagnolino e piscia una schizzetto di sostanza chimica chiamata feromone vicino al cibo, così che l'altra formichina alacre ed operosa che passa dopo di lei, annusa col naso che non ha, ma con gli organi di detection del, sostanza chimica, del feromone che possiede, sente il feromone e dice, ah, qui c'è stata la mia amichetta che dice che quando c'è del cibo cerchiamo, trova il picco di grano, se lo piglia e se lo porta a casa. Che cosa ha fatto la formichina? Ha preso qualcosa che stava dentro di sé, che era la sua riserva di feromone, l'ha schizzata fuori e ha fatto come il vostro cane quando va a passeggio e piscia contro i muri e sulle radici degli alberi per far sapere ad altri cani, ad altri, lui pensa anche a noi, in realtà noi no, ma ad altri esseri viventi, ad altri cani, che lui è stato lì e che quel territorio è più o meno di sua competenza, che gli ha segnato il territorio. E quindi è il prelevare qualcosa che sta dentro e il metterlo fuori. Esattamente da questo punto di vista è la stessa cosa, io che quello che sto facendo ora io è la stessa cosa. Sto prelevando alcuni confusi e noiosissimi contenuti mentali, alcune noiosissime configurazioni neuronali del mio cervello, le sto traducendo in suoni, le articolo, cerco di buttarle fuori nel modo meno peggiore che posso per farvi annoiare il meno possibile, infilando dentro un sacco di battute cretine che non divertono nessuno, ma io mi illudo che possano servire per rendervi più leggera questa orrenda lezione, e la metto, guasta, cioè creo, c'è uno spazio fisico, c'è l'aria tra me e voi, si riempie di onde di compressione e di rarefazione, si comprime e si rarefa, voi siete dotati tutti voi dentro il vostro gentilissimo orecchio di un complicatissimo sistema fatto di membrane, di ossicine, le quali risuonano, vanno in coso, e poi avete per fortuna vostra, chi più chi meno, un software cerebrale, cioè una serie di connessioni per cui siete capaci di accoppiare questi suoni di per sé totalmente insensati, che al mio cane, se ce l'avessimo, al vostro cane non significa assolutamente nulla, invece magicamente ai vostri orecchi acquistano un significato più o meno pertinente, più o meno interessante, più o meno che poi vi fa concludere quanto è bravo questo peronio o quanto ci rompe il cazzo questo peronio, a seconda dei punti di vista che possono anche coesistere, vista la pluralità e la complessità dell'animo umano, anche, a volte anche nello stesso momento dentro la stessa persona. Punto a caso. Okay. sto prendendo qualcosa da dentro di me, di fisico, sto muovendo gli organi fonatori e di, quindi di materiale, perché là comunque è la materia, l'aria è una materia, e di immateriale, configurazioni neuronali, circuiti interni neuronali, e le sto trasferendo fuori e le metto in comune, cioè, e quindi in questo momento io stiamo comunicando, voi state comunicando con me con altre cose, o con le vostre risate quando le fate, o con le vostre facce, addirittura più subliminalmente a volte con i movimenti del vostro corpo, anche impercettibili o incoscienti, che però io ormai, insegnando da un casino di anni, sono ormai allenato a cogliere, quindi so più o meno quando mi devo mettere, ma non lo so fare mai, questo disa campanella e non lo so, va bene. Sto divagando, insomma, no, va bene. Allora, quindi il fulcro è questo: per mettere in comune bisogna prendere qualcosa dal nostro interno o da un pezzo dell'ambiente, eccetera, e portarlo fuori in uno spazio che sia accessibile anche ai destinatari della mia comunicazione. Okay? Allora, come fa l'uomo questo processo di comunicazione storicamente? Come l'ha fatto? Vabbè, sui tempi ci portiamo. Ah, sono nuovo, siamo per... No, ma non si mette il seguito. Abbiamo le... Come fa l'essere umano, come hanno fatto gli esseri umani, quali strumenti hanno usato per comunicare? Diciamo, essenzialmente, due. Non sappiamo, allora, adesso stavo per dire, perché mi sono fermato, perché stavo per dire dall'origine o dall'inizio. Ora, sapere l'origine e diciamo, l'inizio è un bel problema, perché non è che... Come diavolo facciamo a sapere l'origine, eh? Noi siamo sicuri che la specie Homo sapiens parlasse, per esempio non... Molti antropologi non sono sicuri che l'Homo neanderthalensis, che è il nostro cugino più prossimo, la specie più vicina che c'era, l'Homo sapiens, che si estinse poco più di 50.000 anni fa, quindi pochissimo tempo. È una specie che ha coesistito con l'Homo sapiens abbastanza a lungo, anche addirittura in Europa, gli Homo sapiens non ce n'erano proprio, c'era solo Homo neanderthalensis. Non si sa se avessero i loro bossi o i loro... A questo punto sono arrivati alcuni migranti, guarda un po' da dove, dall'Africa. L'Europa si è riempita di ometti più piccoli, senza questa cresta ossea che avevano i trattati di consigliare che erano i neandertalensi, quindi immigrati africani, per esempio, singari nomadi. E questi sono gli Homo sapiens, colonizzano l'Europa nel giro di 20 o 30 mila anni. Non c'è più un grande talento di Dio, non perché erano sterminati militarmente, ma perché probabilmente l'occupazione dello spazio del territorio da parte di questi uomini, che per un certo periodo si chiamavano gli uomini di Cro-Magnon, perché erano stati i primi a trovare, fecero fuori l'uomo di Neanderthal totalmente. E noi, anche Bossi, non direi, ma anche Bossi è discendente di uno di questi immigrati africani. Homo sapiens è stato per quasi 150.000 anni, per più di 100.000 anni, cioè, tra i 102 e i 102 anni è stato confinato nell'Africa diciamo, centrale, nella zona che ha avuto Kenya, Uganda, Tanzania, roba del genere lì, e poi a un certo punto si è sparso per il pianeta e questa specie è stata così brava e così efficiente nell'occupare lo spazio che ha fatto fuori tutti gli altri, forse c'era anche qualche Erectus ancora all'epoca, comunque sicuramente c'era Neanderthalensis che sta un po' segato alla base, come niente. Non mi ricordo più perché avevo detto di vago, sempre come... Origine. Comunicazione umana. Grazie. Allora, quindi, probabilmente Homo sapiens non è l'unica specie fra quelle ominidi dotata di diciamo di perché è l'unica che noi sappiamo. Cui sappiamo questa cosa positivamente perché siamo contenti, però può essere che anche altri l'avessero, anche, forse anche Erectus, forse anche Neanderthalensis, forse addirittura anche perché anche cervelli molto più piccolini come quello degli australopitechi, che sono gli australopitecini, sono 1,5 milioni di anni. eccetera, ma avevano già la stazione eretta e si era già avviato il processo di corticalizzazione, pur con un volume cerebrale molto più basso del nostro e molto più basso del Neanderthal, perché la gente aveva probabilmente una stracanica anche un po' superiore. Non è che la stracanica di per sé sia un grande voglia dire tante cose, però. Quindi, sull'origine non possiamo dire nulla, però sicuramente Homo sapiens è un essere dotato di un linguaggio, e il linguaggio, la lingua parlata, è sicuramente uno strumento, è il primo, molto probabilmente è il primo e il principale strumento di comunicazione, cioè che con cui l'uomo realizza questo processo, no? Prende qualcosa dal proprio interno e lo mette in comune, lo mette in uno spazio accessibile agli altri, ad altri membri della specie. È finalizzato questo processo di comunicazione? Certamente è finalizzato, ed è sicuramente collegato con l'altra grande attività che caratterizza Homo sapiens e anche tutti gli altri ominidi, che è l'attività tecnica. Una delle ragioni per le quali io personalmente sono convinto che anche gli australopitechi avessero qualcosa di simile al linguaggio è che già gli australopitechi embrionalmente facevano tecnica, cioè scheggiavano ciottoli. La scheggiatura dei ciottoli è l'attività più antica che si conosce dall'uomo, e Homo sapiens non è affatto la prima specie che schegge ciottoli, è l'ultima catena di una lunga. Si schegliano ciottoli da centinaia di anni, da un milione di anni molto probabilmente sulla superficie della Terra. E scheggiare ciottoli è un'attività che prevede un atteggiamento di, chiamiamolo, di progettazione, cioè di pensare prima qualcosa, che ha la stessa origine che ha Allora, sicuramente il linguaggio è uno degli strumenti che gli esseri umani hanno per comunicare. Probabilmente il principale, eccetera. Ma in realtà ce n'è un altro, c'è un altro modo che hanno gli esseri umani per comunicare. Adesso vi dico una banalità, perché alla nostra coscienza di esseri post-industriali e televisivi e postmoderni questa appare una banalità e una stupidaggine, ma se invece guardate storicamente vedrete che non è così. Ovviamente l'altro modo di comunicare è quello di fare delle immagini, cioè quello di prendere una superficie rozzamente bidimensionale, non vuol dire solo un foglio di carta, vuol dire anche un muro, bene, vuol dire anche la parete di una caverna, ed è su queste bidimensionale, perché nella parete della, diciamo, caverna le asperità eccetera contano relativamente rispetto al fatto di essere esteso in larghezza e in altezza. Quindi si prende una superficie. Su questa superficie si tracciano dei segni con qualche materia, con un pezzo di legno carbonizzato, con una qualunque altra cosa. E questi segni ripercorrono, per analogia, per mimesis, riproducono certe forme che l'uomo, che la vista dell'uomo ha già visto nel mondo, diciamo, no, naturale. Perché dico che per noi questa è una cosa banale, ovviamente, perché abbiamo la, diciamo, televisione, mentre, perché, adesso lo vedremo, quello che volevo spiegarvi oggi, vediamo se la faccio ad arrivarci, se non divago troppo, è che la funzione delle immagini nel corso della storia degli esseri umani è stata molto diversa da quella che è oggi, e il cambiamento di ruolo e funzione dell'immagine è avvenuto all'incirca intorno alla fine del secolo scorso, alla fine di, no, di due secoli fa, che è la fine dell'Ottocento. Ora, noi siamo nella vulgata, in una concezione ingenua e insomma spontanea della storia degli esseri umani, per una serie di motivi che, ripeto, però sono tipicamente moderni o postmoderni, noi tendiamo a pensare che fra la parola e l'immagine sia un modo di comunicare molto più semplice, molto più immediato, più immediato lo è, più semplice no, e più primitivo neanche rispetto al linguaggio. Se interrogatevi un po' voi, se vostro intimo pensate che sia nata prima la parola o prima la capacità di tracciare immagini? Quindi, probabilmente. Secondo me è nata prima la parola. Secondo te, perché sai già che anche l'anima è. No, non è vero, però, cioè, scusa, devi avere anche un attimo di competenza per rifare un cervo o per rifare un essere umano. Cioè, ci vuole una capacità che è molto più difficile imparare che rispetto a. Questo è un argomento, ma l'altro argomento fondamentale è che la parola è più mobile dell'immagine. Adesso, come sempre, non pensiamo alla nostra esperienza, pensiamo all'esperienza degli uomini, degli esseri umani, da fino a prima del cinema. L'immagine è intrasportabile, o se è trasportabile, cioè sta lì, non è che si può riprodurre a me. Infatti, non è più legata anche alla possibilità di sopravvivenza. Tutto è legato alla vivenza. Allora andiamo a prendere, facciamo degli esempi concreti, perché sennò non ci capiamo. Allora, il reperto più antico che noi possediamo di un'immagine creata da esseri umani sono i graffiti delle grotte di Lafon e subito dopo quelli di Altamira, cose che ormai non potete più vedere perché fanno giustamente più entrare i turisti, perché sono cose di cui però ci sono ormai ricostruzioni rituali, eccetera. Il più famoso tra i graffiti di Lascaux è quello che rappresenta l'animale meglio riuscito da parte del disegno, che è il bisonte, e questo bisonte ha una lancia spezzata in una spalla, vicino c'è un omino, poi c'è un altro animale, c'è una bella scena. Allora, quello che dice Roberto ovviamente è giusto, però nessuno esclude, come nessuno esclude che ci sia stata una lunga fase di balbettio degli esseri umani, anche per parlare ci vuole competenza, perché bisogna possedere un insieme di regole, sia pure inconsci e inconsapevoli, per accostare insieme i suoni, costruire delle catene che siano significanti, che siano il cui significato appunto sia condiviso da una comunità di gente che deve parlare la stessa lingua, perché se andiamo a parlare con un papuago e non parliamo un accidente, è come se il linguaggio ci vuole qualcosa di condiviso, la lingua deve essere conosciuta da tutta la comunità, che no, c'è nulla. Studiosi, allora, questo intanto grosso modo la datazione, se non vado errato, proprio se mi sbaglio, secondo me la scuola è di circa 36.000 anni fa, prima di Cristo, Altamira credo sia di 18.000 anni, comunque diciamo massimo sono 30.000, quindi noi non abbiamo prove di attività grafiche, chiamiamo, degli esseri umani prima di 36.000 anni fa, che è pochino rispetto ai minimo 200.000, forse anche 400.000 anni di esistenza della specie Homo sapiens, quindi siamo sicuri che la specie Homo sapiens parla dall'inizio, cioè da 400.000, nella peggiore delle ipotesi di 200.000 anni, mentre sappiamo che disegna solo da 36.000 anni, quindi certamente, sicuramente ci sarà da qualche parte sepolto sotto qualche terremoto o inaccessibile, ci sarà qualche altra roba precedente, non so, di 5.000 anni, però cazzo, a parte che noi non ce l'abbiamo, no? È plausibile che l'immagine faccia la sua comparsa parecchio tempo dopo la cosa del linguaggio. Ora, gli studiosi si sono interrogati a lungo su quale poteva essere la funzione di queste immagini. Perché il dibattito sulla funzione delle immagini di Lascaux è più interessante del dibattito sulla funzione del linguaggio? Sulla funzione del linguaggio c'è un dibattito, se discute ancora oggi, forse non a Maurizio Costanzo, ma in una serie di circoli filologici per pensionati e per studiosi dilettanti di antropologia, ma insomma sinceramente discutere oggi come oggi sulle funzioni del linguaggio è un po' tempo perso. Però cioè, credo che sia abbastanza di buon senso dire che l'immagine è venuta dopo, Però se io, cioè, faccio un disegno così, uno scarabocchio, cioè una roba, non faccio Basquiat. Cioè, prendo un foglio e faccio un, quindi è anche abbastanza plausibile che non ci siano testimonianze di immagini. Perché? Ma i fogli, non dico, che c'è nei fogli? Cioè, nel senso che non ci sono tracce che sono rimaste, ma probabilmente c'era la possibilità che lo facesse. Cioè, sì, non possiamo dire in assoluto che... No, cioè, non è che perché... No. Se tu normalmente fai un disegno, lo fai sul muro, no? Eh sì, poi loro poi non ma no. Non avevano nessun'altra... Non avevano magari le foglie, le robe, le okay, piante. Sulle foglie, no, le cose lì. Sulla sabbia, sulla terra. Allora, se qualcuno lo fa su un muro, però... qui allora arriviamo. È lì perché c'è un motivo, perché vuole che rimanga. Non solo perché vuole che rimanga. Perché vuole che rimanga per un certo periodo e perché vuole che questo, molto probabilmente, adesso noi non possiamo essere, però è plausibile pensare che la pittura rupestre sia un cartello. Avessero una funzione, alcuni studiosi hanno detto magica, cioè propiziatoria, e quelle che sono guardate sono chiaramente scene di caccia, perché c'è la lancia, il pilastro, non è chiaro, sono scene di caccia. Allora, o è una... o è un diciamo disegno o è una produzione a carattere magico, non diciamo religioso, magico, propiziatorio per avere una caccia migliore, per avere migliore bisogna andare lì a fare questa cosa, o potrebbe anche essere, e ovviamente quelli pervicacemente razionalisti o che sono razionalisti come me o pensano più verso questa cosa, potrebbe essere invece una roba di tipo didattica. Serve per, non è facile, cioè non è che tu arrivi lì, trovi un bisonte, lanci la caccia, le prime volte probabilmente il bisonte ti incorna, ti sbuzza, ti calpesta e la caccia è a culo e si mangiano bacche ancora per varie settimane dopo e la caccia del bisonte ce la stanno sognando. Quindi per cacciare bisogna andare lì, avere delle cose, sapere come si lancia la cosa, sapere cosa. Insomma, ci vogliono una serie di informazioni, di dati, diremmo noi, in più. Allora, può essere che un fortunato cacciatore che ha già portato a termine con successo una caccia al, come dire, bisonte, non tanto per altruismo, quanto per dire, mi sono rotto i coglioni, andare sempre io, provate ad andare pure voi, e dice, allora, guardate, si fa così, e fa la roba e dice, guardate, per il bisonte dovete andare qua, dovete stare in questa posizione, potrebbe essere, quindi, adesso noi ovviamente in assenza degli autori, peraltro conosciuti di questo graffito e comunque peraltro crepati già da un bel po' di tempo, non possiamo intervistarli, quindi non possiamo sapere quale fosse, però o è l'una o è l'altra o sono anche tutte e due, magari pure un poeta lui che c'ha l'animo poetico, tu ami Giambattista Vico infatti la pensava così, che i primitivi erano dei grandi poeti, è possibile, ma no, cioè magari uno hai capito, cioè ci può stare che uno, ma questo solo facesse... quando l'uomo si è fermato, non è più stato nomade. Ma non diciamo così. No, anche prima. Via disegna, poi lascia il luogo e se ne... Da quando è che l'uomo non è nomade? Da poco più di 10.000 anni. Anzi, stabilmente da poco da 5.000, 6.000 anni. L'uomo è stato nomade per la gran parte della testa. Questi 36.000 anni fa era nomade. Nomade non vuol dire che uno va sempre in giro per i cazzi suoi, vuol dire che fa dei giri e poi torna in genere al posto. Quindi sicuramente c'è un po', poi in una certa stagione dell'anno, la caccia al bisonte si farà in certi momenti, non sempre, eccetera, eccetera. Allora in quel momento lì, allora questo è un disegno in cui tu porti o dici ai tuoi compagni di gruppo, di tribù, di branco, chiamiamolo come diavolo vogliamo, di gruppo primario, insomma sociale, dice andate a vedere, lì ci sta questa cosa, prima di fare la caccia al bisonte imparate come si fa, oppure fate il rito di iniziazione, fate la propiziazione, fate qualche cosa per cui si collega con questo genere. Allora, intanto voi capite che in entrambe queste ipotesi, o in qualsiasi ipotesi che voi possiate fare, su una qualunque, anche quella che dice Roberta, che fosse poesia, eccetera, eccetera, va bene. Ma di fatto quell'immagine da sola non si sostiene. E la prova è il fatto di quanto noi, a 36.000 anni di distanza, stiamo discutendo su a cosa diavolo servisse. E perché facciamo questa discussione e non possiamo essere sicuri, non possiamo dire con precisione se arriva questo, se quello, la puntata, perché mancano i testimoni dell'epoca, quindi mancano degli atti di parola collegati a quell'immagine che ci possano assicurare sulla reale funzione di questa immagine. Che vuol dire quindi che la funzione comunicativa di quell'immagine era comunque legata a delle parole. Se non c'erano delle parole, da quella più semplice, tipo vai a vedere cosa ho disegnato sulla parete di quella caverna là in fondo, a magari lunghe formule magiche che non ci sono rimaste, perché ovviamente nulla di quello che noi diciamo rimane, non rimane nulla di quello che, nulla di quello che dico io. Se rimane, rimane perché ci sono delle superfici cartacee su cui alcuni di voi stanno vergando alcuni caratteri che corrispondono vagamente a quello che dico io, o perché c'è un'altra superficie, c'era, non c'è una superficie ovviamente, ma ci sarebbe stata ai tempi dell'immagine chimica una superficie su cui era impressa la mia immagine a 24-25 fotogrammi al secondo che chiacchierava e diceva cazzate, oppure una superficie virtuale, una concatenazione di non ci sono tante abbiata. Immagini che non sappiamo, di cui non abbiamo significato, anche se ci abbiamo anche la stessa parola. Anche se abbiamo lo stesso tipo di linguaggio, no? Cioè ci sono, non viene in mente niente, ma ci sarà qualche quadro o qualche cosa le cui rappresentazioni magari non ci sono del tutto chiare. Poi si diceva che la questione era di una questione di comunicazione, forse perché non sappiamo che cosa mette in comune, cioè non ci sono le società di allora e non sappiamo che cosa effettivamente servissero, no? Che non, ci, non abbiamo la... Che non, cioè che? Può essere pure che non parlassero, però avessero il modo di mettere in comune che qualcosa. Che non parlassero è dura. Non allo stesso Homo modo. Homo sapiens parla, dai, non puoi pensare che il linguaggio sia nato 20.000 anni fa, cioè poco prima di quando arrivano i primi documenti per cui l'uomo parla, insomma. Cioè, la complessità, la capacità cerebrale e un po' di tracce delle circonvoluzioni del cervello sulle pareti del cranio, quelle le abbiamo, insomma. Cioè, ci che sono. Quelle è un linguaggio legato a un gesto. Quindi per fosse mettere in comune qualcosa ci vuole per forza la parola, sì. Anche se è un'immagine, cioè, in questo momento. Cioè, cioè avevano... qualsiasi suono messo sotto. No, parole in senso no, come no, lettera, parola, no, parola vuol dire un suono qualsiasi emissione. Sì, no, se io faccio bu, ba, beh, che cosa vuol dire? No, però al principio, le prime forme di comunicazione ovviamente avveniva attraverso dei suoni impercettibili. Come fa il gorilla e come fa lo scimpanzé oggi, che ha un repertorio limitato di suoni, ognuno dei quali vuol dire una cosa specifica. Arriva un nemico. Abbiamo fame, smetti di rompere i coglioni o qualsiasi altro, non so, sono 50 suoni, 50 significati. Da un certo punto in poi l'uomo sviluppa un sistema per cui con 50 suoni o anche meno, o anche con 25 suoni, può esprimere infiniti significati. Perché? Perché ha adottato questa roba intelligentissima, stupida, ma molto intelligente, della doppia articolazione, cioè ha tolto il significato dal livello base e lo ha attribuito soltanto alle concatenazioni di simboli abbastanza complessi, parole, frasi, eccetera, eccetera. Quindi, allora, noi parliamo di linguaggio solo in questo caso, linguaggio umano, quindi non qualunque suono. Allora, ora noi però stiamo cercando di fare un confronto tra il valore comunicativo della parola e il valore comunicativo dell'immagine. Diciamo che da un certo punto in poi nella storia dell'uomo l'immagine è comparsa perché ci sono le immagini e sicuramente anche queste hanno un valore comunicativo, ma stiamo dicendo che a lungo, non oggi non è più così ragazzi, oggi non è più così, oggi l'immagine è ma fino a prima del cinema diciamo, o prima della televisione, ma diciamo addirittura prima del cinema, l'immagine... Il valore comunicativo dell'immagine era subordinato a quello della parola, cioè la parola era più strategica come livello comunicativo per gli esseri umani, era più importante, era più... E perché questo? Per una serie di motivi, ma il principale dei quali è questo, e cioè che la parola è mobile. È mobile perché, certo, occorre che l'uomo si trasporti. fino a che la parola è parlata, ed è quindi legata a un essere umano che la emetta, la parola è legata a quello che la pronuncia. Ma diciamo all'interno del gruppo originario, primigenio, eccetera, eccetera, diciamo l'essere la cui parola conta più di quella di altri membri del gruppo, cioè diciamo lo sciamano, cioè il capo religioso, il capo religioso in senso contemporaneo, ma insomma quello che è capace di mettere in relazione i diversi piani di esperienza degli esseri, diciamo, umani, cioè in genere c'è solo uno, sono poche persone in un gruppo capaci di farlo, quindi poche persone capaci di sognare, di dare risultato ai sogni o di traslarsi in un altro mondo, eccetera, lo diciamo sciamano. Allora, per esempio, la parola dello sciamano è quella che, perché, come dire, lo sciamano è sempre lì, diciamo, disponibile, con te, viaggia con te, si trasla, gira col gruppo, è qualche cosa di consustanziale al gruppo. L'immagine di Lascaux sta su quel cazzo di muro, non la si può spostare. Per andare a fruire del valore comunicativo dell'immagine del bisonte di Lascaux, io, abitante dei luoghi della Francia, dell'attuale Francia meridionale, devo scarpinare come un disperato, andare in quella grotta, guardare quell'immagine e poi lì fare quelle cose, anche se non dovessi fare nulla, anche se non ci fosse alcun atto linguistico, probabilmente invece ce n'erano di collegati con quell'immagine, anche se non ci fosse. Il solo fatto di andare a vedere l'immagine implicava che io mi dovessi spostare. Quindi l'immagine a lungo è rimasta subordinata alla parola, in primo luogo perché è meno mobile. Secondo, perché è meno duttile. L'immagine di Lascaux vuol dire quella cosa. Se io voglio parlare, voglio dare un'altra informazione, un'altra comunicazione, per esempio quanto è bello scopare con quella tipa dell'altra tribù, devo fare un altro disegno, non devo più disegnare un bisonte, devo disegnare una graziosa signorina dell'altra tribù, eccetera, eccetera, e un tipo dietro che la... è così, fa robe che l'uomo ha sempre fatto da una serpente che c'ha solo voi che scoppiamo. Vabbè. Allora, vabbè, un'altra roba, dai, adesso cambiate il solo esempio, dai. Sennò sembra che c'ho un chiodo fisso. No, dai, va bene. Cioè, quindi l'immagine è meno duttile della parola. Con gli stessi, cioè non è discretizzabile, non è che lì c'è una roba, cioè, sono tanti tratti, anche lì, non guardatela con gli occhi dell'oggi, con Photoshop o con un qualunque computer potete dire, beh, mi costruisco, mi faccio i pixel con dei tratti predefiniti e li mescolo insieme come fossero le parole o le lettere di un linguaggio, posso costruire un disegno come con elementi discreti combinati tra loro come se io parlassi, ma come dire, a lungo, fino a ieri, fino all'altro ieri, fino a pochi anni fa, fino a pochi decenni fa, l'immagine è stata il regno della continuità, del continuo, del gesto, di un gesto che con continuità passa da una posizione all'altra e con un pennello, una matita, qualche cosa in mano, dispone delle linee o dei campi di colore che significano qualche cosa, non è discretizzabile come è il linguaggio che è fatto di, no, con 20 suoni, 25 suoni, li combino in maniera diversa e sono in grado di scrivere qualunque idea. Quindi il linguaggio è molto più duttile, è più mobile, il linguaggio parlato è più mobile dell'immagine, e quindi la sua funzione, il suo valore comunicativo rimane a lungo, per quasi tutta la storia dell'umanità, più centrale, più fondante, più fondamentale. Quindi parola e immagine sono entrambi strumenti della comunicazione umana, ma, ripeto, fino all'altro ieri, no, fino a ieri, fino a pochissimo tempo fa, adesso non è più così, adesso siamo in un'altra situazione, ma se vogliamo capire bene dove siamo ora, dobbiamo cercare di capire come eravamo prima. Quindi per tutto un periodo, per l'arte, stragrande maggioranza della storia dell'umanità la parola ha avuto un valore fondante, è stato il fondamento della comunicazione e quindi della cultura in senso ampio, in senso lato, quindi è stato il centro degli strumenti di comunicazione, di formazione delle regole condivise, di abitazione, di coabitazione degli uomini all'interno di un gruppo che è la cultura. Quindi è stato l'elemento fondamentale attraverso il quale si costruiscono le culture, e cioè gli insiemi di regole mobili e storicamente mutevoli, cangianti, con buona parte di bossi e di tutta la destra antropologica italiana ed europea, però temporalmente, diciamo, provvisoriamente, un insieme di regole che provvisoriamente vigevano e che stabilivano cosa era dentro e cosa era fuori una certa cultura. È stata la parola a lungo. L'immagine è stata a lungo un ausilio importante, che ha dato luogo a grande, ma ancora ai tempi di Michelangelo, quando Michelangelo fa la dipinge la Cappella Sistina, Michelangelo, tutti gli altri, con lui, quando Michelangelo fa questa cosa, fa una grande opera, stupendissima, eccetera, però siamo ancora in un'epoca in cui la cosa fondamentale è il linguaggio. E se dico, se ho preso il falso vado dentro della Cappella Sistina, non l'ho fatto a caso, perché per esempio noi oggi non siamo più capaci di leggere quell'affresco di Michelangelo, il gigantesco affresco di Michelangelo, come lo leggevano, perché? Vi dico questo perché è sempre l'attualità, perché è uscito da poco tempo un libro che ricostruisce i retroterra biblici e dottrinali che hanno dato luogo alla Palestina, cioè c'erano una serie di consulenti legati alla teologia francescana, per esempio il secondo era francescano, eccetera, i quali hanno selezionato le scene e hanno, se non proprio dettato, hanno ispirato a Michelangelo le posizioni dei personaggi, le relazioni di grandezza, eccetera, in modo che quelle immagini rispecchiassero che cosa? Il testo della Bibbia o l'interpretazione, quella particolare scuola teologica dava del testo della Bibbia. Ed è un libro interessantissimo perché si scoprono un sacco di cose che se uno non ha fatto l'esegesi biblica, come tutti noi, almeno che ci sia qui qualche ex frate francescano, qualche ex seminarista, non ne vedo faccia così, però potrebbe sempre essere, quindi gli ex seminaristi hanno sempre una faccia un po' strana, vedono perché a farlo per i matti, tante cose ci sfuggono di quel quadro. Quindi il significato di quel quadro, la decodifica di quel quadro, soltanto come di qualsiasi quadro, è legata a una serie di presupposti culturali che sono tutti presupposti basati sulla parola, o un testo scritto, vediamo un po' cos'è, o dei testi di vario tipo. Anche le capacità percettive stesse dei Cinquecento. Anche questo. Ma però soprattutto la penso che oltre ad entrare in gioco l'aspetto biblico, cioè sia anche un aspetto politico. Sì, vabbè, certo, ma quello però forse è più facile ricostruirlo. Sì, sì, sì, è più facile ricostruirlo. Relativamente più semplice. Ma quindi, per esempio, questo quindi per dire che anche, immagini particolarmente pesanti, veramente importanti, veramente grosse nella storia della nostra cultura o di altre culture, in realtà sono tutti manufatti culturali che devono qualcosa alla parola, cioè in cui è la parola l'elemento più strategico. Allora, Wilhelm Flusser e Alessio, diciamo. Wilhelm Flusser, che è quest'anno,